brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina sono addolorato, ma potrò concedermi a voi soltanto con una melogazio precox, cioè Melog durerà pochissimo. Alle 10:30 darò la linea perché ci sarà la diretta sulla relazione annuale del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Quindi per riempire degnamente questa mezz'ora mi era venuta un'idea. Dunque io faccio una rubrica per il Magazine 24, che è un inserto mensile del Sole 24 Ore. La direttrice un giorno mi ha detto, dice, vieni, ogni mese tu resti a scriverci riguardo a un argomento, ti daremo noi, che è quello monografico del numero, le cose che non rimpiangeresti se nel 2012 finisse il mondo. Beh, diventato una delle mie maggiori ragioni di esistenza, io non vedo l'ora che arrivi il giorno del mese in cui mi viene dato l'argomento su cui devo pensare le cose che non rimpiangerò. Guardate che è fortemente catartico, anzi risolleva. Di fronte a un'angoscia così terrificante, banalmente ridicola a volte, ma potrebbe anche essere probabile, della famosa fine del mondo del 2012, perché così dice il calendario Maya, e Mario Giacobbo su questo ha instaurato la fase più felice della sua creatività, uno potrebbe disperarsi. Cosa mi mancherà se finisce il mondo? Dio mio, la mia famiglia, i miei affetti, la luce del sole, il profumo dei fiori, la primavera, il calore degli amici, tutte cose che potrebbero anche mancare. Ma provate a rovesciare il problema e dite, se finisce il mondo non vedrò più, non sentirò più parlare, non avrò più modo di sapere che esistano alcune cose. Beh, riflettete, poi vi dirò quelle che sono le mie riflessioni. 800240024, immaginate che voi abbiate una fantastica occasione per enumerare le cose che realmente non vi mancheranno il giorno della fine del mondo. Cerchiamo di capirne di più. Venerdì 21 dicembre, anno 2012. È questa la data che antiche profezie indicano come la possibile fine del mondo. C'è chi prevede l'Apocalisse o l'Armageddon e chi invece parla di una nuova era cosmica, un'epoca di grande pace e armonia. In entrambi i casi i segni premonitori sembrano iniziare già a manifestarsi. E tutto ciò che c'è da interpretare è scritto in tempi antichi nella pietra e nei calendari segreti di un antico popolo americano, i Maya. L'antico popolo mesoamericano dei Maya aveva un calendario. Questo è l'assaggino. Evitate la scarnificazione istantanea, perché questa mattina deve essere una trasmissione che vi solleva. Nella sua velocità voglio che ci sia una profonda intensità. Cominciate a usare il ditino e indice per fare lo 0024 80024 0024 e cominciate a dirmi quello che non vi mancherà il fantomatico giorno della fine del mondo. Intanto vi posso cominciare a dire, andando ad attingere da gennaio, che io mi occupo di questa cosa, quindi da gennaio mi arrovello ogni mese e faccio delle meravigliose liste, e alla fine di ogni lista, quando mando il mio pezzettino, mi sento sollevato, mi sento come rilassato, mi sento alleggerito di alcune angustie, e vorrei che poterla fare tutti i giorni, non soltanto una volta al mese, perché mi rendo conto che sono più le cose che uno non rimpiangerà rispetto a quelle che rimpiangerà. I rimpianti saranno pochissimo, perlomeno per i rimpianti c'è sempre tempo, perlomeno c'è sempre tempo per riempire i vuoti di ciò che noi pensiamo di rimpiangere. Ma in realtà c'è sempre una meravigliosa e fantastica occasione per vituperare ciò che non ci mancherà affatto. Ma che tacco riesci a portare? Ma no, guarda, il problema è che io cammino malissimo sui tacchi, però bisogna dirlo, una donna sui tacchi è decisamente molto più sexy. No, è vero, la scarpa è fondamentale. Sono d'accordo. Tu lo sai di essere un'icona per i feticisti? Non lo sapevo. I tuoi piedi, ne hanno parlato tanto dei tuoi piedi. I miei piedi, pensa che me li sono pure operati. Appunto, abbiamo saputo che ti sei operata, ma noi... Sei operata gli alluci? No, ho operato sette dita, che alluci? Sette? Sette dita, non mi piacevano, che devo fare? No, sette direi forse sono troppi. No, non sono troppi, no, veramente. Che te devo 800240024, cosa non rimpiangerete quando finirà il mondo? Ecco, io non rimpiangerò questo. voi direte cosa c'entrano i piedi della barale. I piedi della barale sono la forma esteriore per allucinare il mio vero non rimpianto. Il mio vero non rimpianto è l'idiozia autolesionista. Non rimpiangerò il fatto che dopo il 2012 non vedrò più idioti autolesionisti. Perché i piedi della barale? Questo video apparentemente innocuo, un programmino Cronache Marziane condotto da Fabio Canino qualche anno fa, di stranezze, sconcezze, scurrilità e lepidezze varie, un giorno ospita Paola Barale. Paola Barale adesso è in una sua fase di ripulitura e quindi occupandosi, facendo la grande maîtresse delle pupe e secchioni, ha riassunto una sua figura di austera dominatrice, quindi non parla più di queste frivolezze. Ma questo video che andò in onda in televisione qualche anno fa, poi fu trasmesso, ritrasmesso e rimoltiplicato su YouTube, ingenerò un fenomeno particolare. La Barale mostrò i suoi piedini, che erano anche carini, non so, ci sono amatori specifici di questo genere, molto bellaccati, puliti, organizzati, levigati, vellicati, con dei bei sandaletti. Disse che si era fatta un'operazione per farseli così belli. Da allora iniziò una febbre nelle ragazzine di voler andare a fare i piedi uguali a quelli della Barale. Guardate, è una realtà attestata da un'inchiesta. Cristina Siveri Tagliabue ha scritto un libro sulle bambine che non vedono l'ora di avere 18 anni per potersi rifare. E una delle operazioni più frequenti che chiedono di fare alle loro mamme è quella di farsi i piedini come la Barale. Ma per farsi i piedini come la Barale, se uno ha bei piedoni con gli allucioni ripresi dalla nonna e con la patata ripresa dalla zia, in realtà occorre un po' di lavorio. Quindi vanno spezzate tutte le ossette dei piedi, vanno triturate, vanno rimesse in forma, vanno ingessate. Si sta qualche mese con questi piedoni ingessati con dolori indicibili e poi si hanno i bei piedini come Paola Barale. Beh, questo a me non mancherà. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Cosa non ti mancherà quando finirà il mondo? La pubblicità. E perché? Quali in particolare? Tutta, perché ormai è sotto traccia, guardi la televisione a un livello di volume, la pubblicità c'è un livello più alto, è invasiva, i colori sono sempre più forti, i toni sono sempre più alti, sta diventando veramente, è l'anima del commercio, ma sta diventando, secondo me, veramente molto invasiva, è talmente invasiva che non ce ne rendiamo più conto. Ma sei veramente convinto che la cosa che più non ti mancherà quando finirà il mondo? Perché io nella sua invasività la trovo facente parte della nostra quotidianità, dell'epoca che stiamo vivendo. È il sapore e il profumo, a volte corrotto, però del momento che viviamo, della nostra contemporaneità. Se non ci fosse pubblicità non ci sarebbe questa immagine vivace, artefatta e illusoria dei nostri piaceri. Io almeno la vedo così. Per me non è un rimpianto la pubblicità, anzi non è un non rimpianto. La pubblicità sarà una cosa che rimpiangerò nella deserta landa del mondo distrutto dal meteorite, dove si aggireranno soltanto zombie. Io andrò a cercare un cartellone pubblicitario o uno spot pubblicitario. Però io ogni tanto vedo Wimbledon è l'unica cosa nel mondo che non ha ancora pubblicità, e il solo fatto di vedere Wimbledon mi rilassa, perché si vede solo del verde e si vede c'è qualcosa di strano. Beh, ma dopo la catastrofe, quando pian piano escono le prime piantine, dopo cominciano le piogge acide e via dicendo, poi viene il verde, quindi tutta la terra desertificata sarà verde e quindi sarai felice. Ciao Salvatore. Marco, buongiorno. Buongiorno Gianluca, dai tempi preistorici di Golem che la seguo. Non dire allora quel nome che non porta benissimo. Allora, cosa non ti mancherà quando finirà non il mondo? Non mi mancherà la rata del mutuo, perché purtroppo se finisce il mondo smetto proprio di pagarlo il dicembre del 2012, dopo 12 sofferti anni. Ma pensa lavoro. Che sfiga, tu paghi l'ultima rata del mutuo, arriva il meteorite e ti distrugge la casetta. Sì, proprio, quanti anni proprio sono che paghi il mutuo? 12 anni, proprio il 12 e vedi, cui è prevale. E vedi, c'è una giacobbica predestinazione. Certo, il certo. 12-12-2012, dopo 12 anni che paghi il mutuo, si crollerà la tua casettina. E tu però non la rimpiangerai, perché sarai ugualmente felice. Antonio. Sì, salve. Che ti mancherà? Non mi mancherà la politica con tutte le sue truffe che banale, fa. Banale, banalissimo. Questo è un finto non mancaggio. Non mi mancherà neanche. Sforzati meno un male po- che la politica non può decidere quel giorno lì. Meno male. Sforzati un pochino di più. Un'altra cosa che non ti mancherà. Un'altra cosa che non sì mi mancherà? Sì. È tutto il buonismo falso di tanta gente. Ecco, già qua andiamo bene, qua andiamo bene. L'avevo messo anch'io, pensa, l'avevo messo anch'io. Quelli belli dentro, avevo detto io. Ah, io non potrei. Io sarò felice finalmente di non vedere più persone che diranno io sono bello dentro. Vorrei vedere soltanto belli fuori, se possibile. Vorrei vedere brutti fuori che dicono siamo brutti anche dentro. Quindi siamo sugli stessi desideri più o meno. Grazie. Buongiorno signori. Scusate per il disturbo. Sono una ragazza povera con un bambino piccolo. Aiutatemi, vi prego, per favore, con magari 5 centesimi per comprare latte e panolini. Dio vi benedica la vostra famiglia e i vostri bambini. Auguri buona fortuna, signori, e buona giornata a tutti. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi mancherà, devo dire onestamente. Adesso dite quello che volete, dite che sono un terrificante uomo, un pessimo signore, che non ha coscienza, che non vede l'altro. Io sì, non vedo l'altro. Trovo che questa sorta di illusione di confondersi, trasformarsi, immedesimarsi, vivere il mondo con gli occhi dell'altro, debba avere dei limiti. Ecco, questo fa parte dei format che vedo ogni mattina realizzare da perfetti attori nei luoghi di transumanza tra casa e lavoro, e ogni mattina mi chiedo, ogni volta mi chiedo, ma quando finirà questo? Quando finiranno persone che devono rappresentare comunque aspetti che in realtà sono dolorosi dell'umanità attraverso una fantastica, se vogliamo, e perfettamente riuscita sceneggiata? Perché tutti fanno finta di nulla? Perché tutti immaginano che questo non succeda? Beh, questo a me sinceramente non mancherà. Maria, buongiorno. Buongiorno. Cosa non le mancherà? La mia capa, ma non perché è cattiva, proprio perché è stupida, cioè praticamente rappresenta tutta la stupidità nell'ambito del lavoro, la falsità, tutte quelle cose per cui una giornata ti può andare storta, ci sono delle cose che non ti piacciono e quindi a me non mancherà lei. Sa cosa ho scoperto però io, Maria? E questa è una cosa che veramente non mi mancherà. Che sono i rapporti del lavoro, tirano fuori la nostra parte più stupida e la nostra parte più idiota e la nostra parte vero. Più falsa, no, dice? No, forse per alcuni sì, e forse quelli come me che sono veri nella loro essenza sono giudicati male, però io vedo tanta falsità e quindi lei rappresenta la falsità, rappresenta la come posso dire il rapporto non leale. Allora lei si immagini un secondo, lei adesso è alle ore 11:58 delle 12 dicembre del 2012, vede arrivare questa palla di fuoco dal cielo, come prescrive naturalmente Giacobbe il calendario Maya. Uh-huh. A pochi istanti di tempo il suo pensiero va felice alla sua capa che prenderà fuoco, schiatterà e scoppierà. Sarebbe una bella cosa. Vede che la fa star bene, vede che c'è una maniera per trovare anche aspetti positivi nella fine del mondo. Grazie Massimiliano. Buongiorno. Cosa non le mancherà? Il giorno che allora, arriverà la palla di fuoco. A me non mancherà la mediocrità. Non mi mancherà. Nessuno è mediocre. Guardi, nel momento esatto, alle 11:58 del 12 dicembre 2012, quando saprà arrivare la palla di fuoco, nessuno sarà mediocre. Saremo tutti gloriosamente al centro di un apocalittico spettacolo. Come fa a trovare mediocrità in quel momento? No, la mediocrità nel senso è il periodo che stiamo attraversando adesso. Il consumismo, il trionfo del chi meno spende più spende rispetto a chi al fantastico e quotato chi più spende meno spende. Non l'ho molto capita questa cosa, però gliela passo per buona. Ma che guardi, l'esempio facile, una volta compravamo una televisione, ci durava 12 anni, adesso in 12 anni compriamo 12 televisori. Beh, bellissimo, perché, sempre un televisore nuovo. Non lo so, semplicemente perché ci accontentiamo in tutto di cose di qualità inferiore. Ma perché non la vede in positivo? Non ci abbiamo più questo senso di micragna, di... Mi è venuta in mente una cosa l'altro giorno. Lei quanti anni ha? 35. Lei ha mai visto l'uovo di legno per rammendarsi i calzini? Vede, non sa nemmeno cosa sia. No, mi sa di no. Lei guardi, dunque, io il primo anno 1900, ma mamma non lo fa ancora. Anno 1983, pensi, non è manco parlo, il primo anno che cominciai a vivere da single e venni a Roma col primo contrattino Rai, mi ricordo mia madre nella valigina mi mise l'uovo di legno per appendarmi i calzini. In effetti è vero, io mi ricordo, quell'anno ogni tanto usciva il ditone dal calzino blu, perché allora c'erano soltanto blu o neri, e uno prendeva lì, uno aveva insegnato la mamma, faceva il rammendino. Le pensi oggi se io potessi soltanto immaginare se si sfonda un calzino me lo debba rammendare o far rammendare da qualcuno. È una cosa bestiale. Il calzino si mette un po' di volte, poi si butta via e si ricompra. Ecco, vede come siamo cambiati. Vede quante micragnose abitudini siamo tolte di dosso grazie al consumismo. Lei non le deve rimpiangere. Viva Dio che si può cambiare, si può rinfrescare e buttare via la roba vecchia. Io prenderei ogni mattina tutto ciò che c'è vecchio a casa mia, lo butterei dalla finestra e vorrei poterlo ricomprare nuovo. Natale. No, Nathalie, buongiorno. Nathalie, Nathalie, chiedo scusa. Buongiorno. Perdono. Chiamo da Udine. Allora, questo dell'uovo di legno l'ho trovato eccezionale, anch'io odio adesso. Cioè lei rammenderebbe mai una calza? Com'è? No, non la rammendo. Ho rammendato stamattina l'orsetto di mio figlio, però appunto lui sì, l'orsetto, ma se lei vedesse un uomo col pedalino rammendato non le verrebbe un conato di vomito? Più che un conato di vomito, un po' di pietà, insomma. Poveretto. Ma vedi però invece il consumismo ci ha migliorato la vita. Ma vabbè, consumismo fino a un certo punto. Io ho telefonato per dire che ad esempio io non rimpiangerò la macchina. Io questi sfigati che girano col SUV li trovo veramente agghiaccianti, nel senso che più su vai, più grande è e meno lo sai guidare. Una bella soddisfazione quando lei alle 12.58 del 12 dicembre 2012 vedrà arrivare la palla di fuoco, vedrà questi con il SUV che si metteranno come crocifissi sul cofano della loro macchina cercando che non si graffi Ma loro arderanno ben più di me perché io sarò in bicicletta e loro saranno dentro la lamiera. Vabbè, tutto quel gasolio si faranno una bella fiammata, quello è vero. Infatti. Beh, quindi riesce a trovare motivo di felicità anche dalla fine del mondo. Ma probabilmente sì, insomma io arriverò un po' più magra, un po' meno stressata e... Beh, si prosciugherà in un fulmine, vedrà. va bene, sarà così però insomma, ecco, spero che ci troveremo da qualche altra parte, ecco, chi lo sa. È una speranza. Patrizia. Buongiorno. Cosa non le mancherà? Non mi mancheranno i centri commerciali. Ma perché elencate tutte le cose che danno più gioia? Io questo vorrei capire. No, a me non danno. Cos'è questa sorta gioia di puritanesimo e catastrofico senso di mortificazione? A me non danno gioia perché sono pieni di brutta gente, ignorante, buzzurri, e chiatti, sono dentro tutti a comprare. Ma anche via Condotti se ci passa alle 7 di pomeriggio, assolutamente, è pieno di gentaccia. Che vuol dire? Il mondo è pieno di gente. Verissimo, anche via Fratina, via Monte Napoleone, ma i centri commerciali sono dei contenitori di questa brutta gente, pieni di cattivo gusto, di oggetti di cattivo gusto, non terribili. So. Sì, terribili. Sono punti di vista, io amo gli oggetti di cattivo gusto, però ognuno ha il suo punto di vista. Vabbè, lei vorrà vedere una grande moria di abitatori di centri commerciali. Ignoranti soprattutto, poveri. Ignoranza. Va bene, le auguro di restare sola e poter coltivare in solitudine il suo senso di diversità rispetto agli ignoranti. Ma io guardi mica che sono buonista, anche a me stanno sulle scatole gli ignoranti, però mi affascina contaminarmici con gli ignoranti, mi diverte, mi fa sorridere, mi fa sentire vivo. Gianna. Buongiorno, sì, sono Gianna di Bergamo. Cosa non le mancherà? Non mi mancherà il Festival di Sanremo e il calcio. Pensi, liberarsi del Festival di Sanremo, un sogno. Però lo sa cosa posso dire una cosa, Gianna? Io sto notando che esiste una sorta di cavalcamento folle del luogo comune nei disgusti che uno vorrebbe vedere distrutti per primi il giorno dell'Apocalisse. Perché non vi sforzate in più a trovare qualcosa più personalizzato? Potrei dirvi anch'io, cosa non rimpiangerai? La fame nel mondo, la guerra, l'invidia, la brutta televisione, le persone che... Ma quelle che sono cose scontate. Calcio. Io sono povera e sono felice di esserlo. No, io guardi, la povertà mi mette un terrore bestiale a me. Come? La povertà mi mette un terrore terrificante. No, perché? Sto bene, sto bene. Ho quello che mi basta. E va benissimo, perché non mi sento in colpa con il resto del mondo. Se io fossi ricca, forse non sarei onesta, perché diventare ricchi oggi, non lo so. Però non può essere considerato un delitto la ricchezza, onestamente. Io non voglio dire, io sono contro il pauperismo come virtù. Se uno fa una scelta di vita austera, sono veramente grato del fatto che mi illumini con la sua scelta. Ma dire che la povertà sia bella... No, non è bella. Però è sufficiente avere il necessario, non il superfluo. Io sto bene quando, quando vedo tutti questi cellulari nuovi, tutti devono avere le cose firmate, tutti devono. Cioè è il superfluo che mi disturba tantissimo quando ci sono persone che non hanno il necessario. È chiaro che ci sono cose molto più importanti del Festival di Sanremo, per l'amor di Dio, però... Però lei dice, quello è il mio motivo di disgusto, e io lo rispetto. Sentiamo Arcadio. Arcadio, con questo nome, sì, lei dovrebbe essere felicemente in armonia con tutti, invece? Sono felice di aspettare questo momento, perché chissà che spariscano tutte queste cose, questa distruzione continua dell'ambiente, eccetera, eccetera, che vediamo. Ma lei è un nichilista totale, contro la distruzione dell'ambiente, vuole la distruzione totale. Beh, punto di vista. Ma vedi, sono sicuro che spariranno tutti i produttori e spariranno anche i buoni, ma i buoni faranno un ma anche il panda sparirà, anche le specie protette. Vabbè, Arcadio, questo è il suo punto di vista, lo rispetto. L'ultimo che vorrei veramente fosse felice è Giacobbo. Giacobbo, buongiorno. Buongiorno. Io sono felice perché quel giorno avrò la possibilità di non sentire più la sua voce, le sue trasmissioni che parlano quasi sempre di sessuologia. Sessuologia? Di quando mai? Quasi si confonde con Nicoletta Carbone, è la collega. No, che... lei. Io non faccio il sessuologo. Io mi sento esattamente... No, no, ma questa cosa è la sessuologia, mi interessa. Di questo giorno che naturalmente arrivi in fronte. Ma lei è parente di Giacobbo, quello del 2012? Ma lei non la riguarda, però naturalmente Giacobbo... è questa. No, ma che naturalmente veramente tante necessità che ha questo paese, sentire solo esclusivamente delle cazzate che non stanno nel cielo intero. Ma perché dice parolacce, signor Giacobbo? No, non ho mica detto parolacce, guardi che le parolacce non so neanche come si scrivono. Ha detto cazzata, poteva dire stupidaggine, vacuità. Ma stupidaggine che non sta nel cielo intero. L'uomo di legno si mette a ridere quando i nostri genitori ci davano da mangiare perché non c'era nulla. La saluto, vada pure avanti, che è una persona meravigliosa. Ecco, il signor Giacobbo ha chiuso e si è autodistrutto e ha anticipato per lui la fine del mondo. Ce l'aveva con me, ma l'ho lasciato parlare. Mi ha evitato la somma gioia dell'insulto, perché si è limitato a dire che dico cazzate. Però questo non posso assolutamente contraddirlo, ma ho ancora... Ah no, è finito Giacobbo, non c'ho più niente. Sono arrivate le 10:30 felicemente, abbiamo fatto un elenco di... probabili felicità per qualcuno se dovesse finire il mondo il 2012, e quindi noi ci sentiamo senz'altro domani. Melog 2.0